La Cicogna Nera. Un minuto dopo le 21 iniziamo anche questo giovedì, come ogni settimana, le sonorità popolari contemporanee della Cicogna Nera. Subito i contatti in apertura, il numero della diretta 06 49 17 50, potete chiamarci per qualsiasi motivo, ecco sta squillando subito il telefono ma noi non rispondiamo perché siamo in onda, e c'è anche una mail se volete scriverci, lacicognanera@ondarossa.info. Infine sul sito della radio trovate naturalmente tutti i contenuti streaming, quelli dei TG, dei GR, delle trasmissioni tematiche e anche, perché no, anche delle ultime puntate della Cicogna Nera. Questa sera la Cicogna riparte da un po' di musica popolare tradizionale. Nella scorsa puntata ci siamo lasciati con un gruppo che arriva da New York, che si chiamano le Las Rubias del Nord, ossia le bionde del Nord, una musica caraibica, latina, molto molto interessante, un nome che si è ispirato a un gruppo di musica messicana ben più famoso, conjunto, come si dice in Messico, che cavalca ormai le scene da molti molti anni. Si chiamano i Los Tigres del Nord ed escono lo scorso anno 2010 con El Rugido de Los Tigres del Nord. Ci andiamo ad ascoltare la canzone di apertura. Quanto narcotrafficante, polizia si Dunque, la canzone di apertura, La rivolta dell'agua dei Los Tigres del Norte, iniziano con quanti narcotrafficanti, polizia e pistolero. Questo perché l'ispirazione dei componenti del gruppo, Teodoro Bello, è una critica aperta nei confronti dei conflitti sociali che insomma imperversano da un po' di anni nei narcorridos nel nord del Messico, e in un territorio insomma dove ogni giorno si parla di tragedia, di morte, di impunità, mentre la maggioranza della gente non fa altro che chiedere lavoro, non quello di piangere morti. La musica particolarmente che fa questi gruppi legati in un modo pericolosissimo ai narcos si chiama il norteño, la musica norteña, che è un genere di musica appunto messicana che ha origini super giù nel tardo XIX secolo, grazie proprio ai migranti della Repubblica Ceca e tedeschi in particolare, che sono andati insomma in queste regioni del Messico del Nord e nel sud degli Stati Uniti, e hanno portato con loro naturalmente alcuni dei loro generi, tra cui i più famosi o quelli che ascoltiamo di più all'interno di questi gruppi sono la varsoviana e la polka. Il norteño, che come strumentazione, come timbri, ha due strumenti che lo identificano maggiormente, che è quello dell'accordeon, della fisarmonica, a cui si aggiunge il bajo sexto, questo dovrebbe essere la pronuncia della chitarra a sei doppie corde, caratteristica appunto del norteño. C'è un altro gruppo di norteño messicano che vi facciamo ascoltare adesso, questa volta però loro dovrebbero avere patria o domicilio così negli Stati Uniti, precisamente vediamo se riusciamo a rintracciare il paese, che dovrebbe essere Modesto in California, forse sono emigrati lì, chi lo sa. I Los Zafiros del Norte, che andiamo ad ascoltare con Narco Corridos Prohibidos. Soy michoacano hasta el polvo que levantan mis talones. Yo no le temo a la muerte ni tampoco a las prisiones. Por el negocio que tengo me buscan unos cabrones. Huérfano de cuna humilde, en Buenos Aires nacido, y las mañas que ahora tengo se las deba a un gran amigo. Me enseñó a vender de todo lo que llaman prohibido. Empecé de muy abajo, no tenía otra salida. Hay que tenerlos bien puestos pa' poder llegar arriba. Mi escuadra de 15 tiros me ayuda a cuidar mi vida. California, eres testigo, tú sabes cómo llegué. El imperio que ahora tengo, poco a poco lo formé. El cocol me dicen todos, y hasta el nombre ya olvidé. San Antonio y ceñidor, en mi Mustang arreglado, muy contento siempre voy, y en Buenos Aires me espera la que es dueña de mi amor. En Modesto, California, los narcos me han detenido, solamente por sospechas quieren llevarme al presidio, pero me pelan los dientes porque no me les humillo. Las olas como el dinero dicen que vienen y van. El cocol ya se despide, se va para Michoacán. Voy a esas fiestas de octubre de mi lindo Apatzingán. Come avete sentito, colpi di pistola in questo Narcos Prohibidos, Narcorridos invece è il titolo dell'album di questo genere del norteño messicano, perché come vi ho anticipato c'è questo legame molto pericoloso con i narcos. Molti gruppi di norteño cantano o addirittura esaltano le gesta di alcuni narcos, e non è la prima volta insomma che qualcuno dei componenti di un gruppo musicale ci rimette la pelle per qualche screzio o qualche parola cantata male. Comunque, andiamo avanti, il Nortegno è solo un genere dell'infinita varietà, infinita forse no, ma tanti generi musicali che costellano il grande Messico, da cui siamo partiti questa sera, ci sentiamo insomma in apertura un po' di generi tradizionali, soprattutto che arrivano dal secolo scorso, se non addirittura nel XVIII secolo. Andiamo ad ascoltare ora uno dei forse più grandi o conosciuti all'estero, gruppi e conjunti messicani, che è quello dei Mariachi. Mariachi che è solo uno dei tanti tipi o figli del son messicano, che è questo grande macro contenitore, se così lo vogliamo chiamare, dove ci sono all'interno diversi filoni, diversi gruppi e, come dire, mariachi, ci sono la musica ranchera, ci sono c'è la polca, c'è il corrido, insomma tante forme musicali all'interno del son messicano, che ha molto in comune con quello cubano e quello, non mi ricordo, c'è un altro stato che sicuramente ha insomma ha la stessa età di sviluppo del son messicano, anche se solo nel nome, poi nei timbri si distacca abbastanza il son cubano, il son montugno dal son messicano. Comunque il mariachi, che è quello che ci andiamo ad ascoltare ora, è un insomma un gruppo musicale soprattutto tipico dell'ovest del Messico, ed è un comprende anche lui all'interno altri stili come il son jalisciense, la canzone ranchera, che poi vi spiegherò meglio, una canzone di strofa, possiamo definirlo una ballata messicana che prende il nome di corrido, e lo andiamo ad ascoltare con i Mariachi Reyes del Aserrado. Reyes del Aserrado, che dovrebbe, anzi probabilmente significa il re della segheria, da una regione che da dove appunto arriva lo sviluppo e la crescita massima dei mariachi. La canzone che ci ascoltiamo si chiama Las Abejanas. Punto tipico dei mariachi, solitamente formato da 7 o 12 elementi, comunque non è che ci sia un limite nella maggioranza dei casi, comprende due violini, due trombe, contiene la chitarra spagnola, la vihuela, il guitarrón, una sorta di grande chitarra molto tipica negli ensemble del Messico. E per quanto riguarda invece la musica che abbiamo sentito, il gruppo, che sono quelli dei Mariachi Reyes Segheria, ossia il re della segheria, Italia hanno fatto questo album che si chiama Sones de Jalisco. Jalisco è proprio la zona da cui arriva questo gruppo, e questo anche album che è stato pubblicato nel lontano 1993, ma se non sbaglio registrato addirittura, come c'è scritto nel libretto, allegato nel luglio del 1985, proprio naturalmente a Jalisco. Il nome di questo gruppo arriva dal suo fondatore, probabilmente anche dalla sua segheria, insomma dalla sua falegnameria, ed è composto naturalmente, anzi naturalmente no, ma ed è composto dai molti dei membri della comunità del suo fondatore, ossia Gesù Reyes Lara. Noi andiamo avanti ancora con un po' di musica tradizionale messicana, ci spostiamo in una regione che si chiama la regione della Terra Caliente, ed è una regione naturalmente che si chiama così perché è molto molto arida, molto secca, con una temperatura minima, leggiamo su Wikipedia, di non meno di 28 gradi, ma mi sembra un po' troppo altina, insomma, come minima di tutto l'anno 28 gradi. Comunque, la Terra Caliente arriva anche una musica e una tradizione che è quella della musica calentana, e di uno dei suoi grandi propositori, compositori, musicista, violinista, che è scomparso nel 2007, Juan Reynoso Portillo. Thank you. Son Calentano di Juan Reynoso Portillo con questo El Pijón dalla musica tradizionale della region, non so quale sia l'esatta pronuncia, della Terra Caliente, anno di pubblicazione di questo album 2000, una musica, quella del Son Calentano, che combina la musica, la danza, la poesia popolare. Avete sentito il ritmo abbastanza frenetico, comunque pieno di ritmo, nonostante l'armonia, un ritmo che spesso è in 6/8, in 3/4, un ritmo che ha dentro delle sincopi, dei contrattempi, una musica insomma da ballare. E ora un altro gruppo che ha fatto storia, questa volta un trio huasteco che risponde al nome dei Los Camperos de Valles, con questo Camino a Valles. Hanno fatto una canzone molto molto bella e ritmata, si chiama Las Mañanitas Huasteca. Trio che prende il nome dalla città di Ciudad Valles, nello stato di San Luis Potosí, prese a suonare per la prima volta insieme nel 1974, ed è un trio che ha rappresentato e continua a rappresentare al meglio una delle più floride caratteristiche e tradizioni musicali del Messico, quello del son huasteco, segnato, come avete sentito, dall'impennata della voce, da canzoni, da refrain in falsetto, e che arriva da questa regione centrale del Messico, la Huasteca, una delle regioni più celebri del Messico culturale. Ci sono 6 stati all'interno di questa macro regione, insomma, compresa San Luis Potosí, Veracruz, leggiamo ancora Hidalgo, Querétaro, e insomma tante storie, tante culture diverse, e in una delle più caratteristiche e meticciate zone dell'intero Messico, tant'è vero che proprio qui si incontrano maggiormente la cultura coloniale spagnola, quella africana e soprattutto quella indigena, quella degli aztechi, ma non solo, perché in Messico ci sono altre culture come quelle zapoteche, che hanno contribuito a plasmare canzoni anche nella stessa lingua natia. Il son huasteco dunque è diventato questa espressione importante, questa identità secolare del meticciato di questa regione, e loro, i Los Camperos del Valle, se l'hanno portato avanti con onore, mi verrebbe da dire. Allora, ancora rimaniamo in questa regione con i Los Cantores della Huasteca, e l'album si chiama Sones y Huapangos Huastecos en Nahua. Música panzi, ci come sciocci sti martili, se fanni tanami che qua se panzi, e patia se fanni a meli, di martili se da pepeccioli, paratonanzi ma chi se li, negli acquiani tottoli, ci con i caia si anisalo, ci con i caia se li corri. Ci con i caselle mette vino, mo i spanzi, santo signor. Qui caticate, no ci totome, papà e amero, tranne sia. Tranche tra spiale, tranche tra tolle, a sta mostazzi in mecilia. Come sciocci sti martili, se fanni tlanami che qua se panzi, e patia se fanni a meli, ti martili se tla pepeccioli, paratonanzi ma chi se li, negli acquiani totoli, ci con i caia si anisalo, ci con i caia se li col, ci con i caselle mette vino, moi spanzi santo signor. Qui caticate noce sto tome, papà e amero tlanesia, tlanghi tla spiali, tlanghi tla tolli, hasta mostazzi in mecilia. Avete sentito, questo sicuramente non è spagnolo, ma probabilmente arriva da un ceppo di lingue indigene, che sono quelle del Nahuatl, se questa è la pronuncia, proprio proveniente da questa regione. In effetti il termine huasteco, nella lingua nativa si dice uxteco, e la canzone, la forma musicale che avete sentito è quella dello huapango, che è una sorta di tradizione dallo huapanco, proprio una lingua, un termine indigeno della insomma di questo ceppo Nahuatl, e che significa testualmente in cima alla piattaforma di legno. Il trio tipico del son huasteco riunisce praticamente il violino, come avete già sentito nei Los Camperos de Valles, una huapanghera che è una chitarra, e una huasteca yarana che è un chitarrino piccolino. Non so quale differenza ci sia tra la huasteca yarana e il requinto, un altro piccolo chitarrino a sei corde molto presente nella musica messicana. Comunque, questi erano i Los Cantores della Huasteca, e rappresentano insomma una delle realtà più interessanti del Messico. Come vi ho detto, una zona piena di indigeni, ci sono circa 1 milione di parlanti in questa regione del dialetto Nahuatl, e noi andiamo ad ascoltare un'altra canzone, diciamo così, natia, autoctona, che arriva da un gruppo abbastanza, anche questo, impronunciabile, come la canzone di prima che tralascio, e bene o male si dovrebbero pronunciare i Binegolasha, Binni Gulaza, una canzone anche questo per trio, per voce e chitarra. Intanto l'andiamo ad ascoltare. Que casto vini bien. Tiana Bidi Tibi Chidizinha Tinha Lugo Namazi Urubidu Biguela Kevina Saque Castovini Biana Bidi Tibi Chidizinha Il son Ismenios, questi Binego Lascia, il titolo della canzone dovrebbe essere Nibixi Xi Zina, è un son che molto spesso in tre quarti si avvicina al valzer e quello invece per quanto riguarda il timbro, avete sentito qui c'era il re quinto che, come vi accennavo prima, è questa piccola chitarrina acuta a sei corde presente in diversi stili messicani e che piuttosto che essere strimpellata viene pizzicata. Dunque, musica tradizionale questa volta piuttosto che degli aztechi, degli zapotechi di Oaxaca, che è una stata, una provincia, non è più, non siamo più nella Huasteca, nella zona Huasteca, ma siamo nella regione a sud-est del Messico, vicino al confine con il Guatemala. Qui c'erano questa popolazione degli zapotechi ed erano una delle grandi civiltà indigene della Mesoamerica, simile naturalmente per importanza, magari non proprio conosciuto come loro, comunque al pari dei Maya, degli aztechi, delle culture mixteche. E per quanto riguarda invece la cultura, leggiamo che gli zapotechi furono probabilmente i primi a sviluppare il calendario mesoamericano, un trionfo di capacità dell'uomo di osservare e interpretare gli schemi della natura e dell'universo. Vabbè, comunque darono questo contributo allo scorrere del tempo questi zapotechi. Noi lasciamo la musica tradizionale, non lasciamo ancora il Messico per quest'ultima canzone, andiamo a sentire un duo che ha fatto molto furore negli ultimi anni, è arrivato con una bella botta sia a Londra sia qua in Italia, penso che siano stati anche all'Auditorium. Sinceramente sono dei maestri, dei di della tecnica, ma per quanto riguarda il sentimento non so fino a che punto li riescono ad esprimere. Rodrigo e Gabriela, che sono due messicani che si sono convertiti sulla via del ritorno dal metal estremo, diciamo, al folk, alla musica popolare, hanno pubblicato due album. Andiamo ad ascoltare il secondo album, che si chiama 11 e 11, la canzone è Savitri. Thank you. Chitarre classiche al posto di un'orchestra è un'abilità tecnica indiscutibile, naturalmente è per questo duo che ha scalato le classifiche anglosassoni e probabilmente è arrivato anche alle vostre e alle nostre orecchie qui a Roma. Comunque a voi l'ardua sentenza se è una musica popolare che vi piace o meno. Noi andiamo avanti, ci stacchiamo dalla regione centroamericana, la regione messicana, e lo facciamo attraverso il requinto, questa piccola chitarrina a sei corde, perché nella diaspora, nella colonizzazione spagnola che partì alla volta del centro e del Sud America, sicuramente portò con sé tanta tradizione, tanta cultura, tanti strumenti che poi arrivarono in Sud America e sfornarono, se mi concedete il termine, tante piccole chitarrine, compresa questo del requinto messicano. In Venezuela c'è il cuatro, che è una chitarra invece a quattro corde, sempre piccola ma molto più grande del requinto, però quasi tutte probabilmente prima di assumere questi nomi passarono e si fermarono nelle isole Canarie, dove c'è l'unico strumento autoctono di questa arcipelago che si chiama el timple, ed è un chitarrino veramente molto molto piccolo, penso il più piccolo che si possa trovare in tutto il mondo, forse leggermente, anzi sicuramente ancora più piccolo dell'ukulele, ormai che sta spopolando, sta diventando famoso in tutto l'Occidente, non si sa perché è partita la conquista dell'ukulele alla volta del mondo. Comunque questo strumento sconosciuto, che ha una letteratura pressoché nulla al di fuori delle isole Canarie, si chiama timple. Probabilmente il nome arriva da tiple, da cinque corde, che sono le sue originali, anche se nasce in due isole diverse, in un'isola o in un paio di isole con quattro corde, invece a Tenerife, l'isola più grande delle Canarie, con cinque corde. Allora, poco tempo fa sono state da quelle parti, ho visto insieme alla mia compagna, insomma, una orchestrazione folclorica, e c'erano tanti di questi timple all'interno che fanno un suono veramente molto molto carino e azzeccato, se così si può dire. Andiamo quindi ad ascoltarci una delle canzoni più popolari, più folcloriche, più più orecchiabili dell'intero arcipelago, si chiama Andrés. Andrés, Andrés, ¿qué pasa en el motor? ¿Qué se te... Andrés, rebaccate il motor, se no ti sale l'acqua per il carburatore. Intanto sotto la nostra voce ci ricorda insomma la Cicogna Nera, che siete all'ascolto delle sonorità popolari contemporanee. Sono le 21:44, ancora un quarto d'ora circa per la nostra trasmissione volta insomma a farvi un po' conoscere le musiche del nostro globo, spero anche le musiche del nostro futuro. E dicevamo, a proposito delle Isole Canarie, avete sentito il timple, questa sorta di piccolissimo chitarrino a quattro, più spesso a cinque corde oggigiorno, che viene suonato in tutti gli ensemble che si trovano sull'isola. Una peculiarità da queste parti è che quasi tutti gli ensemble, quasi tutti i gruppi, le orchestre sono praticamente fatti di solamente di tutte corde. Ci sono chitarre, c'è uno strumento che si assomiglia alla viola portoghese, di cui non mi viene momentaneamente il nome, insomma una chitarra a doppie corde, forse è una sorta di guitarron del Messico, e appunto il timple. Anche molti conjunti e gruppi di mariachi messicani sono nati praticamente come cordofoni, poi magari proprio in quelli mariachi si è aggiunto il suono della tromba, insomma di un po' di fiati. Comunque rimaniamo nelle Isole Canarie, dove si suonano ancora le malaghegne, la Isas, la Folias, queste forme tipiche insomma del paese, che arrivano naturalmente dalla Spagna, però qui le tradizioni sono ancora molto ben conservate, a differenza della Spagna, la gente tiene ancora molto al loro passato e lo insomma ci è attaccata, lo fa rivivere, forse non riesce molto ad attualizzarlo, a farlo evolvere in suoni diversi, ma comunque tempo ce n'è in abbondanza. Quello che è particolare nelle Isole Canarie è che praticamente quando arrivarono a colonizzare gli spagnoli, quando passarono qui per andare al Sud America e per tornarci, insomma, è ancora oggi un crocevia, un arcipelago che rappresenta proprio un punto di passaggio per tutte le rotte commerciali, comprese quella della droga, che vanno in Sud America. C'era già una popolazione che abitava da queste parti, una popolazione molto particolare che si chiamano i Guanci, e che era anche questa, se non proprio autoctona, veniva, non so precisamente quando, però veniva dal vicino Maghreb, dalla vicino Sahara, una popolazione berbera che non so in che anno e non so in che modo, però venne qui, ed era una popolazione, a differenza dei magrebini, un po' più chiara di pelle, con gli occhi azzurri, insomma una popolazione particolare. Comunque questi spagnoli alla fine li matarono, li ammazzarono quasi tutti quanti, forse alcuna, però alcuna cultura, forse alcuni si sono mischiati, insomma anche oggi se si vedono i canarioti, la loro pelle è un po' più bianca, un po' ci sono, spesso si incontrano persone con i capelli biondi, dunque ci sono retaggi un po' strani di etnie, di meticciati un po' strani da queste parti, forse si sono mischiati con i Guanci, forse con le tante rotte coloniali che anche passavano di qui dal nord Europa. Comunque questi Guanci sono una popolazione berbera, e noi proprio lì andiamo a finire in quest'ultima parte della trasmissione, per andare a sentire una rappresentante della musica gnawa, la musica che ha incontrato Hasna El Bekaria, ed è probabilmente la sola donna del Maghreb a suonare questa musica gnawa, che è un ritmo rituale praticato per lo più, o se non proprio esclusivamente, dagli uomini, e che prende piede da quando le credenze animiste del Bilad Es Sudan, ossia il paese dei neri in arabo, quindi la Guinea, il Senegal, il Mali, il Niger, il Chad, tutti questi paesi attuali, hanno incontrato la fede monoteista dell'Islam, che è venuta dall'altra parte del deserto. Hasna El Bekaria pubblica nel 2010 Sma, noi proprio andiamo ad ascoltare la title track. اسمع يا وليدي ويا عيني يا اسمع اسمع رجالي Asna nasce a Béjar, anticamente Colombe Béjar, che è una metropoli del Sahara algerino, che è stata trasformata nella colonizzazione, ai tempi della colonizzazione francese, praticamente in una città militare, a un attimo, proprio a un passo dalla frontiera marocchina, che dà un crocevia tra le due Afriche. Asna cresce insomma tra i poveri, tra gli esclusi, accoglie le mogli ripudiate con i loro figli, cerca una nuova vita sostenuta dal codice della famiglia ignobile, si sente libera, esce la sera, frequenta i marginali in questa città di provincia, preclusa da tradizioni asfissianti, schiacciata dai pettegolezzi, leggiamo su un sito veramente ben fatto. Insomma, non riesce a togliersi dalla testa questo ritmo ossessionante, questo ritmo gnawa, questa trance mistica che arriva insomma dall'Islam, soprattutto dal Sufi, possiamo considerarla una confraternita Sufi, questa dei gnawa. Suo padre, che era anche maestro del sincretismo gnawi, il plurale di questa parola gnawa, questo insomma sufismo, come vi ho già anticipato, nero, importato dai discendenti degli schiavi subsahariani nell'Africa bianca. Queste parole le ho prese, le stiamo leggendo da un sito veramente molto ben fatto, che si chiama Il Canto di Lilith, www.ilcantodililith.com, dove si trattano diversi artisti del sud del mondo con biografie, insomma interpretazioni abbastanza poetiche, come avete sentite, sia in italiano che in francese che in inglese, e basta, queste tre lingue. Quindi veramente, se direi di farci un salto, è veramente un'ottima idea. Andiamo ancora avanti 5 minuti in teoria, ma in Noctibus Panis anche questa sera ancora non c'è, magari ci dilunghiamo giusto 2-3 minuti, sentiamo ancora un po' di musica, lo facciamo con ancora musica gnawa, questa volta contaminata, questa volta che arriva al di fuori della sua terra naturale. Lui si chiama Usef e pubblica per la Crammed, questa etichetta belga dedicata alla world music, nel 2008 Halal Wood. Questa è una canzone molto particolare, che cerca un po' l'accostamento tra questa sorta di sufismo nero con il tropicalismo brasiliano. La canzone si chiama Marhabaia. Di fusione, questa Marahabaia, che è la fusione di due parole, quella di Marhaba, che significa welcome, un tradizionale Gnawa con Bahia, che molto probabilmente è la città brasiliana. Alle voci qui c'era Sahid Damir alle voci Gnawa, mentre per quanto riguarda il Brasile era rappresentata dalla vocalità e dal berimbau di Tal Pastel, H. Pastel, che se lo trovo, eccolo qui, si chiama João B. Santos. Dunque, forse un meticciato ardito, ma forse non è così, perché in qualche modo queste due musiche sono legate dal tempo dello schiavismo. È proprio da qui che partirono, da queste zone dove si è nata e sviluppata la musica Gnawa, che partirono insomma la schiavitù, molte delle persone che colonizzarono il Sud America, in particolare il Brasile. Bene, la trasmissione sarebbe finita, però visto che non ci sono le sonorità di Noctipus Panis, prendiamo qualche minuto perché vogliamo chiudere con un'altra donna piena d'animo, piena di vita, di forza per andare contro il sistema, contro i conflitti sociali. E lei è berbera, a differenza di Hasna El Beccaria che abbiamo sentito poco fa, i berberi che proprio identificavano i Gnawa come un'etnia che arrivava appunto a sud del Sahara, un'etnia nera, i neri di pelle per loro era una parola che non si poteva scindere dal termine e dal concetto dello schiavismo. Nero di pelle voleva dire proprio schiavo. Comunque anche lei forse, anzi sicuramente, è stata una schiava. Mariam Hassan, questo è il suo nome, di questa profuga, perché quando è nata nel 1958 vicino a Asmara, era allora una piccola colonia del Sahara occidentale, ma poi a 17 anni il re marocchino Hassan II organizza la Marcia Verde e circa 350.000 cittadini marocchini invasero tutto il territorio del Sahara occidentale e fecero andare fuori dal proprio territorio molti abitanti del luogo, molti berberi, compresa naturalmente Mariam Hassan, che si è rifugiata dapprima in un campo al sud-ovest dell'Algeria e poi, non lo so, durante il tempo, comunque negli ultimi anni si è trasferita in Spagna, dove, se non mi ricordo male, dovrebbe fare l'infermiera. Comunque, ci dice, leggiamo le sue parole: la musica rappresenta la nostra eredità più preziosa e protegge la nostra esistenza. I Sahrawi, che sono la popolazione del Sahara, non sopravviverebbe senza la musica. Io non ho mai studiato la musica, l'ho imparata dai miei amici e da mia madre, dal mio popolo. Io porto canzoni di un paese rifugiato che è stato cacciato dalla sua terra 30 anni fa. Leggiamo anche che vive vicino a Barcellona attualmente Mariam Hassan, che pubblica lo scorso anno 2010 come Hasna, lei pubblica Asma. Invece Mariam ci delizia con il suo Shouka, che non ricordo bene cosa significhi la traduzione di questo termine. Allora andiamo a sentire quest'ultima canzone che chiude questa puntata della Cicogna Nera. Quando sono le 22.05 noi ci ridiamo, un appuntamento giovedì prossimo, come sempre alle 21 o alle 21:15, se prima ci precedono le sonorità di CPT Balkan Music e di Margherita. La canzone con cui ci lasciamo è Heid Arbain. طابعتنا كنا حرين قابلين بعين ورها فينا حق التمثيل.